poi ho mangiato tutto quanto, sono risceso giù e uno l'ho beccato, era sul cancello dell'entrata con l'arancione. E io piano piano sono andato, non c'avevo né coppola né nulla, sono andato perché ero col cane e non sono riuscito a prenderlo, è andato nel cortile di un'altra signora, ho saltato il muretto, sono entrato addirittura nell'impianto che c'ha del gas, sono entrato, ho aperto la porticina perché lui è tratto lì, si è messo sulla rete che circonda l'impianto del gas, sul bombolone. Scappato, poi ha saltato i barbi, oh guarda, sono stato 3 ore cercandoli e cercando di prenderli, poi alla fine ho detto, beh, porto sul cane e prendo il cocco, mi è venuta l'idea, col cocco l'ho preso subito. Ah, cappa, e quindi sei sicuro che quello è ancora nel cortile e non se n'è andato da un'altra parte? Esserne sicuro non ne sono sicuro, anche perché ci sono cornacchie, gatti, di tutto e di più nel cortile, capito? C'è una signora che mette da mangiare i gatti e le cornacchie vanno e si mangiano la roba dei gatti, si bisticciano i gatti con le cornacchie. Tu devi vedere la scena, il gatto che minaccia la cornacchia, col becco aperto, è un po' che male. Ho capito, sono, come dire, bip le cornacchie, mi stanno antipatiche. Sono tutte, io avevo un amico che ce l'aveva la cornacchia, si chiamava Checca, ed era simpatica, gli andava sulle spalle, era domesticata. Noi l'abbiamo preso un giorno una cornacchia, tornando da Ugilo prendendo il foraggio, già morta dopo poco, poveraccio. E come ha fatto a prendere? Di solito quando vai a prendere le cornacchie i genitori ti attaccano. Allora una volta la signora mi dice, ascolti signor Gianni, ma non fa una cortesia? Sì, dimmi, dica. E c'è una cornacchietta piccolina sotto la macchina, ho paura di schiacciarla, devo uscire e ho paura di schiacciarla, non è che la prende? Sì, mi sono inchinato, stavo andando per prendere, dall'albero sono scese 2 cornacchie, il padre e la madre dovevano essere minacciose, facendo ho fatto in tempo e tempo entrare nel portoncino che porta nel cortile. Guarda, si sono sbattute alla porticina, mi volevano fare male davvero. Mamma mia. Sono scesa in picchiata da un albero, da un pino che in alti lati non ne avevo manco visto. E cosa era successo? Che il vento, avevano fatto il nido in questo pino che è molto alto e in punta avevano fatto il nido, le cornacchie. E è venuto questo vento e invece non ce l'ha fatta a resistere, il nido è caduto giù, la cornacchia l'ho trovata morta in terra. Il nido poi ho trovato e questa cornacchietta che era viva che girava sempre in cortile e nessuno si poteva avvicinare alla macchina sua perché se no lo attaccavano, capito? Quando andavi in cortile tu a prendere la macchina al posto macchina dovevi stare attento, ti dovevi mettere la roba in testa perché se no ti attaccavano. Ehi, aspetta, mi stanno chiamando per la 50ª volta, una chiave da 10 e una pinza. Eccomi, sono tornato, sono tornato già. Ricordi, sto mandando gli uccelli, aspetta. Li ho visti, mi è arrivato il messaggio. Aspetta, al telefono, Riccardo. Ehi, Luca, ci sei ancora? Stai ancora aspirando? Ho finito, mi sto vestendo, sto per uscire. Per uscire? Da quanto è che non esco, devo ancora uscire alla quarantena, non sono neanche uscito. Avanti il brecco, Claudio da Muros, ti ho riconosciuto subito. Ok, ciao Claudio, ben ascoltato, avanti Luca per Muros. Ciao, ti ho arrugginito, ben sentito, sono al telefono, scusate un attimo. Cosa c'è? Lo sento basso. Ciao Claudio, mi ascolti? Ok, dai, basso, ma ti ascolto. Riprendete voi, che io sto tra un po', tra pochi minuti ed esco, riprendi Ricca. Beh, Claudio, cosa mi racconti? Un attimo che attacco la cassa ISU, devo solo inserire il jack. Ecco, sono tornato, ho attaccato la cassa. Là. Quindi non ho capito, scusa, che prima stavo attaccando la cassa, non ho capito cosa hai detto oggi. Ah, come mi ascolti? Infatti è più basso rispetto alle altre volte. Cosa stai usando? Se mi fai questo passaggio ti conto il segnale nella radio. Ok, Santiago 910, la radio è 4, perché come dire, c'è un po' di spazzatura, però già ti ascolto bene. C'era uno che stava fischiando sotto, avanti chi fischia, l'usignolo. Vabbè, avanti qua. No, secondo me non è spagnolo, sta fischiando così forte. Comunque con volo non c'è neanche propagazione, questo è di qui. Claudio, scusa se te lo chiedo, ma potresti mettere qualcosa di più potente? Perché c'è questo che fischia sotto e non ti sento bene. Prova, perché sei un po' così basso. Infatti anche Luca ha detto che sei basso. Perché stai usando questo LAN 48? Oh, avanti Gianni. Sì, adesso ti ascolto meglio. Gianni, avanti! Ho sentito. Li hai visti come cazzo? No, non li ho visti. Adesso li devo guardare. Stavo cercando di fare una transazione. Gianni. Avanti. Ma non è per favore un controllo di radio? È buona Claudio, è buona. Una radio forte, bella, grossa. Va bene, sì. Non è saturo niente, va bene. No, Super 5 anche da me. No, non è saturo. Vabbè, ok, grazie. Continuate, ci sentiamo. Chiudo, là, vado a farmi una passeggiata. Ah, stasera magari, più tardi, se no a domani, ciao. Luca. Eia. Ascolta, mi stava dicendo l'aria. Mi ascolti intanto? Cazzo, sei 9, quasi 9.30, dimmi. Non c'è più carbonato, vabbè, sono con la direttiva. Ascolta, ti stavo dicendo, mi stava dicendo l'aria, scusate un attimo, mi stava dicendo l'aria, se era fattibile recuperare un numero di telefono da lì, perché non c'è nella SIM. Assolutamente no, quando metto il display sì, ma adesso ora come ora no. Ok, a posto, va benissimo, perché è un numero importante aziendale che le serviva. Grazie, Ocarie. Scusate l'intervento, ci sentiamo, grazie per avermi fatto entrare, ciao a tutti. Luca, se c'è a pigioga, venga dai occhi. Ehi, andava, dai, ciao. È stata giornata di ciocca, Luigi. È tornato io vicino a casa, ne ho fatto un bel po'. Avanti, Muros, che l'abbiamo lasciato in parcheggio. Sì, sta andando. D'accordo, ce l'avevi questa batteria, Riccardo, con Claudio? A me un anno mi durava anche un anno. Dopo una me la cambiavo io, ma non è che si scaricava, te la cambiavo io. E poi già si vedeva il risultato, la lancetta andava a fondo scala quando parlava. Che stazione base c'hai? Non ho capito, Cla, che stazione base? Sì, Ho capito, sì. Avanti, chi c'è rimasto? Luca se n'è andato, Claudio in ascolto, quindi di nuovo Gianni. Aspetta che devo cercare questo apparato. Io lo conosco, ce n'è uno in vendita, mi piace molto. Ho capito. Comunque sì, come bisogna fare scorta di queste batterie. Io con questi 10 microfoni adesso me le devo comprare, adesso ne ho già 3 e me ne devo comprare altre 7. Claudio. Avanti, torre di controllo, ti ha detto avanti. Aspetta, dammi il tempo. Mi ascolti bene lì a Muros tu? Sto andando col gemello del tuo, la 48 e l'MB più 5. È uguale al tuo, gemello del tuo, ne avevo due, trovo. È uguale a quello lì. L'ho tolto per provare, in assenza che non ci siano splatter, perché altrimenti non lo posso usare. Stavo facendo una prova, gli ho agganciato il 747, però c'è un'altra antenna qua e c'è la direttiva dei 10 metri, per non stare a commutare, perché spazio nel commutatore non ne ho più, allora gli ho messo l'antenna dei 10 metri. Va bene, il segnale è com'è lì da te? L'M300, Gianni, ne ho due o tre qua di quelli lì. Ricordati che te l'ho chiesto uno. Te l'ho chiesto uno se me lo davi, vabbè. Sì, comunque adesso va bene Gigi, adesso è di lusso. Continua a parlare perché ti sto registrando. Positivo e Caffarroggio, vendo, sia, vendo tutto l'aggancio completo, microfono e baracchinetto. È un baracchinetto di 34 canali questo qua, vendo tutto, fate prezzo voi quello che... fate un prezzo tra microfono e baracchinetto. Ma sono, comunque c'ho Gigi, non ho capito neanche che baracchino è. Se la verità è tipo un Midra, è un Midra, però il 48 se lo conosce, questo è più piccolo, è il 44, capito? Il 44. E che cosa c'ha di modifica? Le modifiche erano, diciamo che quasi normale, l'ho solamente io portato a picchi di 12 watt, solo quello gli ho fatto, non ho fatto altro, però se voglio lo riporto come era prima. È vergine, vergine era, capito? È un po' di vecchia data, ci avrà 20 anni, 30 anni, non lo so, c'è un sacco d'anni questo qua, è perfetto in FM pure, ne ho fatto preparato due. Ne ho fatto due, capito? E ancora devo fare i colpetti perché non mi piacciono, devo fargli i colpetti nuovi. Vediamo un po' se mi ascolta Claudio più amoroso. Claudio, mi ascolti con questo piccolo baracchino? È positivo, io sono vicino a Fonto Torres comunque, dai. Questo è il più piccolo dell'Ara 48, è fatto come l'Ara 48 ma è leggermente più piccoletto, capito, di vecchia data. Va bene, dai, sì, si può fare senza tirarlo molto, qualcosa, si può andare di più, però senza tirarlo molto va bene. Quando ti arriva a 10 watt, 8 watt va benissimo, modulati però parliamo. Lo puoi abbinare bene con qualsiasi lineare, se lo vuoi abbinare, così, però se esageri no, capito? Va bene così, facciamo girare, vediamo un po', forse qualche messaggio di Gianni, adesso controllo il telefono, riprendi Riccardo. Sì, riprendo io, no, va bene comunque. Gianni, ma tu mi hai detto di sentirle come fischietta, no? Non mi hai mandato il video, mi hai mandato solo una foto. Solo la foto ti ho mandato, che mi ha dato, perché c'è anche fotografia, aspetta. Positivo, no, c'è troppo eco, ho ascoltato il video. Gianni, c'è troppo eco, non c'è più nessuno. Sì, ci sono io. Vediamo un po', l'ho abbassato un altro pelino. Provate a abbassare l'eco un altro pelino. Adesso mi piace di più. Va bene, dai. Perché se faccio il parlascolto, che si può fare, poi mi innesca e non va bene, capito? Se no si può fare il parlascolto, però non lo voglio fare. A me serve solo il microfono. Mi hai copiato il K Ruggero, ho copiato. E microfono. Sai cos'è già? Poi quando io sto, a volte delle cose sono geloso di darle, capito? E non me ne faccio nulla perché l'ho messo adesso e poi ce lo butto da una parte e rimane buttato, perché questo è stato parlando adesso, ce l'ho anni e anni e c'è sempre la stessa batteria e non so come stia facendo a funzionare, c'è sempre, non l'ho cambiata, sempre la solita batteria c'è. Vabbè, là, non fa niente, no, non c'è problema. Ohia, perché io lo volevo mettere nel 2009 quello lì, capito? Perché col 2009 si adegua molto. È positivo, devo cercare, ne ho un altro anche nuovo, lo devo cercare, non mi ricordo dove l'ho messo. Ah, mi mancava forse la batteria in quello altro, perché c'è anche un altro. L'altro giorno era un altro che ho provato, non era questo, era l'altro ancora. Però devo guardare che ce n'è un altro da qualche parte, nuovo pure. E non mi ricordo dove sia adesso. Capito, non mi ricordo, devo cercare invece tutte quelle scatole che ho conservato. Devo cercarle. Ma quello ci ha separato l'eco e il volume del microfono, se tu vuoi qui togli l'eco anche così. Vabbè, l'ho abbassato. Gianni! Oh! Bello bello! Hai sentito? Sì, ho sentito. Tutto è chiuso, si può dire. Vedi, adesso non ci dovrebbe essere neanche l'eco più. Ma Gianni, a te quanto ti arriva, Gigi? Prova a modulare, Gigi. Sono baracchino, sono, l'ho dato qualche po' di vita. Io sono a ottava, capito? Sono a ottava. Qualche vitamina solo che gli ho dato io da dentro al baracchino, 9,25 Gigi, ma arriva a me. E anche da questa parte il segnale uguale, siamo vicini, vabbè. Positivo, perché giustamente gli ho dato un po' di radio, l'ho fatto tutto regolato dall'interno, dai. Ho fatto delle regolazioni, gli ho fatto delle tarature e tutto qua, capito? Perché non funzionava questo, Non funzionava proprio, ma me l'ho dato perché non funzionava, io l'ho messo a posto. E cosa ci aveva? È finale? No, negativo, fesserie, cosette che... Capito, se uno un po' ne capisce è un gioco, se uno non ne capisce nulla, non riesce a capirne nulla, no, è difficile, però io ci sono arrivato subito, ma subito, capito, senza problemi, sia uno che l'altro. Prova di alimentazione. Le cosette dentro che erano spostate, staccate, qualche cosina bruciata, qualche condensatore, capito? L'ho visto subito al volo quando l'ho aperto, dai problemini che c'aveva, il tastino dell'FM, tutte queste fesserie qui, capito? Ho cambiato il tastino dell'FM, ho controllato tutto bene dentro, poi ho pulito bene dentro, e ho cambiato un condensatore, capito? Gli ho dato un po' di radio e un po' di picchi di modulazione. Non più di tanto, perché se ne può dare ancora, però non gliel'ho dati, capito? Si può dare ancora di più. E l'hai anche verniciato così? No, non l'ho verniciato, gli ho fatto la mascherina che non si leggeva nulla. Da un altro, da queste mascherine che ho, che si mette, che erano di Inter, che di altri, le ho ritagliate e gliel'ho fatte, ho visto com'è uscito. Mi sembrava un apparecchio modificato. Se tu lo vedi, era, la mascherina non si leggeva nulla, è vecchiotto, non si leggeva nulla, niente, è per quello che gli ho fatto, ma hai visto com'è uscito bellino? Dagli una foto, se la puoi mandare a Riccardino, così lo vede. Ti dico di quanto era vecchio davanti, non si leggeva nulla. Gianni, manda sta foto. L'ho vista, Gigi. Ti è già arrivato? Sì, in questo tempo la posta arriva in fretta. Vedi, un baracchino che è un midra, perché è un midra, capito? Però non si leggeva neanche davanti, però dentro è nuovo, proprio era verginello, proprio mai... Capito? E c'era qualche condensatore, un condensatore che col tempo, giustamente... si vedeva che l'ho cambiato e niente, l'ho fatto il tastino dell'FM, l'ho cambiato, basta. E poi l'ho pulito dentro, controllato bene, e gli ho fatto quella mascherina, vedo come gli ho fatto la mascherina davanti. E verrà fatto? È bellino, la tua figura adesso. Sì. Oh Gianni, ma ti volevo chiedere, mi sono dimenticato, ma Roberto aveva fatto corretti o non ne aveva fatto? Sì, ha fatto corretti e l'ha anche detto, ti ha salutato. Ha fatto corretti perché ha detto che doveva uscire, doveva fare roba, non so con chi doveva uscire, cosa doveva fare, però doveva uscire. Cappagappa. Gigino, sempre pensando. È positivo, adesso gli mando la foto del 48 e del coso, come è, dell'altro, quello che parlavo in camion io. Che cos'è? Non tu mi dai? I microfoni dentro casa, quelli che uso, ti faccio una foto da paura, guardi la mia stazione. Positivo. Mi nomi Riccardino vantandosi, Bobo. E Bobo! Bobo! Mandamela a me la stazione, così poi la manda Gigi Vulcano. Devo venire dalle tue parti, devo andare da un poliziotto in quella zona lì, da Fabrizio, e devo comprarmi due canarini, che me ne sono scappati, cazzo, stamattina tre me ne sono scappati dall'allevamento. Gigi, due li ho beccati, cazzo, dovevi vedermi a me col coppo in strada, col coppo per pescare la giubiliante. Gigi! Ascolta, come stavo facendo il video, ti volevo dire, sai che c'era canarini e tutte queste cose? Sandro Tigre ne ha un bel, e il fratello ne ha un coso grande di canarini, che è una cosa il fratello di Costanzo, lo straniero, Tore, ha una marea, c'è un allevamento di canarini, è una cosa impressionante. Lo so. Anche io ce l'ho uno, non ne ho tantissimi, ma ce l'ho regolarmente anch'io, dai. Stamattina io ce ne ho in veranda, c'ho praticamente una scaffalatura dove ci sono tutte le gabbie, no? E praticamente stamattina gli ho dato, l'ho messo da mangiare e mi sono dimenticato una gabbia aperta. E praticamente sono scappati, c'era la finestra aperta, si sono messi tutti quanti sul filo da stendere, Tyson, come li hanno visti, li si è tirati addosso e i canarini sono scappati in cortile, sono tutti volati, cazzo, guarda, tre. C'era uno che col che vale 83 euro, perché ci sono tutti quanti selezionati, capito? Sono, e quello me l'ha dato Fabrizio, abita vicino a casa tua, praticamente devi fare la via del supermercato, fino al fondo, poi gira a destra, poi visto dove era morto quel ragazzo vicino a quel, quel lampione che c'è andando al campo. Ma Fabrizio Campus, no? O cosa fa di cognome? Campus, poliziotto, quello che c'è un allevamento di uccelli, c'ha degli uccelli selezionati, che cosa non vedi su? È positivo, positivo. È più semplice, entri non la via di casa, l'altra via più in giù, ancora più giù, ancora dove c'è l'altro bar, quel bar giù in fondo il primo, salendo da, da produttore del primo, entri in quella via lì e te lo trovi lì vicino stesso, senza fare molti giri. E vabbè, lui a me la cara me l'ha spiegata così la prima volta, e quello lì, Fabrizio, a parte che è un bel pulito, c'è un allevamento, guarda, è veramente pulito come gli alleva tutto quanto. Poi fuori c'ha due, tre voliere grandi, in cortile, tutte piene di bengalini, di canarini, di bovi, l'antulla, io sono in mangibile, chissà quanto ci spende, guarda, io già ci spendo un bel io, figurati. È positivo, positivo. Adesso, no, già conosco, conosco bene il padre. Il padre adesso purtroppo è da tanto che non c'è più il padre qua, che l'ha fatto richiudere in un ricovero. È stato lui proprio il figlio, perché non ci stava un po' con la testa, capito? Aveva l'Alzheimer, come si chiama, ed era un po' aggressivo, era un uomo bravissimo. Guarda, uno spettacolo molto gentile, molto educato, poi con questa malattia è diventato aggressivo, è diventato molto aggressivo con i familiari e sono stati costretti a rinchiuderlo, non so dove sia, comunque credo che si trovi ancora il padre Gian Maria, ecco perché ero molto amico del padre, io te la verità, molto molto amico. Ci credo. No, anche Fabrizio è una brava persona, Nel poliziotto proprio non c'ha nulla, se non me l'avesse detto non c'avrei più nulla. È amante molto degli animali, partecipa alle fiere, compra canarini selezionati, li paga anche 120, 130 euro l'uno. E fa questo allevamento che c'ha di arlecchino portoghesi, è un allevamento che c'ha solo lui. Ce li ho io anche perché li ho comprati da lui e ce l'abbiamo in due nella zona di Sassari, questi arlecchino portoghesi, c'hanno cinque colori. Ho capito. Ascolta a me, ma adesso lei, voglio dire, io l'ho abbassato del tutto il microfono, come sta uscendo? Non ce n'è eco così, è amplificato lo stesso. Sì, sì, va bene, è presente la radio oggi. Positivo, dai, se vedevo il CT e cos'è, ma questo sarà migliore, il CT a vedere com'è. Se ti dico che è meglio il CT è così, quello lo dai a me, fa anche rima. Allora, questo è il CT, col CT è normale, dai. È una radio normale, meglio l'altra, senza ombra di dubbio, questa qui è normale. È una radio normale, io l'ho sempre cercato quel microfono lì, mi è sempre piaciuto, però poi sono spariti dalla vendita, cazzo di te che ha fatto certi microfoni amplificati che valgono un bel, ne ha fatto uno che usciva con una batteria da 1,5, ma tu devi sentire con la modulazione, io ce l'avevo sull'FM500S quel microfono, che poi avevo dato a Fernando, te lo ricordi, quello che faceva parte dei CB produttori su quei baffetti del Santirite, che poi è morto, poveraccio, che faceva l'autista, Fernando. Ma noi si disegna, ma Fernando Montijo si dice, ma che quello, quei baffetti è basso, sta dicendo. Esatto, sì, lui era nel club CB di Porto Torres e l'avevo dato a lui quell'apparato lì, grazie poco le era piaciuto, e lo facevo uscire con questo microfono Intec con la batteria da 1,5, ma sa quanto usciva forte. Sì, sì, te lo conoscevo bene a Fernando, conoscevo bene, abbiamo lavorato, viaggiato assieme, facendo diciamo anche un anche parecchio da 8 anni abbiamo viaggiato assieme. Sì, ma io vabbè conosco il figlio, ho lavorato da lui il figlio, a lui lo conoscevo molto bene lo stesso, mi aveva detto anche che ci aveva degli apparati che usavano loro, se mi interessava, ma no, non cosa me ne faccio, insomma questi sono VHF, cosa sono, c'aveva due apparati mi voleva dare. Non so di che cosa sia morto, però poi avevo saputo che era morto, cazzo, mi aveva dato un mondo in capo. Avuto quella malattia brutta, quando è andato in pensione stava aiutando i figli, perché i figli mi pare facevano pavimentisti, non so, argentino, stava lavorando insieme ai figli, capito? Però si è ammalato subito dopo la nostra pensione ed è morto, molto giovane. Ma ci ho manco goduto, ci ha fatto la vita in sacrifici, La vita è crudele, E ti dico una cosa, quando stiamo facendo, lo vedo bloccato, già no, già sta andando, quando stiamo facendo il coso per il carbondotto da lì da Porto Torres a Fiume Santo, tutte quelle travi lì, che portavamo da Cagliari e viaggiava anche lui, ma lo sai che c'erano le cozze, lui lì dove c'era quel coso che stavamo facendo, quel pontile, quel ponte che lì in mezzo mare, e lui dalle rucce si faceva le cose e se le mangiava lì, si sedeva e si mangiava le cose e nel frattempo aspettava a scaricarlo. Capito? Mangiava le cose, quelle cose crude se le mangiava tranquillamente lì. Dani, manda! Già fatto, sono inquinate quelle cose, non le usavamo per pescare le rate, guarda di gatti, puoi fare il portacere da quanto sono grosse. Ti dico che invece la, sai dove in fondo mio, sai dove c'è quel coso lì in fondo, e lui se li mangiava già, cavolo, si sbucciava, sedeva nelle rucce e si mangiava che queste cose, gli faceva una mangiata, di coso lì a Faventino, a vedere come ti sembra. Ti pare minoreto, ma poi da cosa va? Gigi si è rifatto gli occhi, non riesce a parlare. Comunque c'è tutti i microfoni tranne il mio. È positivo, no, già ce ne ha microfoni, li ho visti. Ma io, vedi, non sono stato mai appassionato di questi microfoni, di quelli lì. Io quando li ho avuti li ho sempre dati. Più che altro li ho sempre regalati, dico la verità. E ne ho uno. No, aspetta, neanche quello. No, c'è, uno ce n'è. Ce n'è uno dentro lì che è buttato da una parte. Di quello da tavolo, però tutti gli ho dati sempre via, non ne ho tenuto mai neanche uno di quelli lì, e della verità non ne ho né uno dentro la scatola che non so neanche se funziona e basta. E che abbiano sempre il capo morbido, mi piacciono così, io se non ce l'hanno morbido glielo cambio il capo, glielo metto morbido sempre. Perché essendo sdraiato e cose, mi piace tirarli, fine e cose, infatti gli apparecchi me li ho attaccati tutti quanti col biadesivo ai ripiani, no? Di modo che con tutti non si muovono. Gianni! Sì, no, io dico la verità, non sono stato mai appassionato dei microfoni da tavolo. Io al limite faccio l'amplificazione, invece di averlo sul microfono lo faccio sul baracchino. Applico meglio il baracchino, sono fatto così, io sempre con le palmari adopero come microfoni. Se voglio amplificare, amplifico il baracchino. Io ne ho uno solo, la MV5, che ho tutto, diciamo, quello lì è Gianni by Luca, che l'avevo fatto in due. Io gli ho messo la capsula, tre cose, Luca gli ha cambiato il capo. Insomma, è un microfono che è stato tutto elaborato. Vediamo se Gianni ascolta Alfa 21 da questa parte. Avanti Alfa 21, dimmi. Qual è il microfono che mi manca uguale al tuo, che dici tu? E tu pensa che cosa può essere? Ah, il Sanelta Master Plus non ce l'hai lì. Non mi piacciono i Sanelta. Non ti piacciono? Questo è un Sanelta, guarda come esce, cazzo non ti piace. Come fai a dire che non ti piace il Sanelta? Il Sanelta è uno dei migliori microfoni che c'è. E le prestazioni, tutto, ma non mi piace, come è fatto? Ce l'hai attaccato al Galaxy, però non mi piace, anche quella cuffietta grossa, brutta, cioè, secondo me. Guarda che la cuffia gliel'ho messa io, un antisoffio quella lì, se no il Galaxy, c'è la fina fina, cioè la piccolina è fina, gliel'ho messa io quella lì, è un antisoffio. Ho capito, adesso mi sto riguardando la tua stazione. Hai un alimentatore a 50A, un S9, un HP1000 e ne hai anche tu un bel di roba. Oh, io sai cosa c'ho? Microfoni palmari ne ho, non lo so neanche io quanto ne ho. Di quelle già ne ho, ne ho anche troppi. Di quali? CPE, di tutto ciò, di quelle palmari. Ne ho una marea. Di CTE ne ho, per esempio, ne ho una infinità. Oh, ci siamo dimenticati i Muros, se non sbaglio. Via Franco. Attenzione, Franco California, ci ascolti il doppio rum che parla, cambio. Va bene, che bene, questo è l'ara 48, Riccardi, questo è un ara 48. Ho fatto la continentale. E poi Tonino è entrato, Tonino Cavazza, che ha fatto lo spagnolo, ha fatto dei risati, e lui che si sfogava, si sgolava per parlare. Danny. Non ti sente Franco, non ti sente, lo senti Gigi a Franco? No, negativo, non l'ascolto io qua a Ottava, Franco proprio qua a Ottava non lo sento. Come ti sto arrivando io lì a Ottava, Gigi? 9 più 10, una cosa del genere, sì. Gappa. Gigi, invece io è uguale. Quale? Ide compattate. E io invece con questo 48 come ti sto arrivando adesso? Prova. Vedi un po' con questo ala 48 com'è la situazione. 9.30. Piace questa radio, è un ala 48 Riccardie, vedi che col doppio modulatore questo è comunque. Sì, aspetta, sono al telefono, si sta andando bene. Ia ia, Franco, attrinza, ti aiuto. Ma non vedi, cazzo, mi sembra una bacina segnale in giro, è strano che arrivi così basso in quella zona. E non sono male qualcosa, cioè, vedi, tutto bene, sembra che sia andato. Chi? No, la mia stazione, sto dicendo, è strano che arrivi così basso, arrivo a 9.25 in quella zona, 9.20. Chi però, Franco? No, io. Ma vedere se questo 48 si è preciso il segnale, ho già, sono baracchini questi, non fare affidamento. Beh, e anche io sto usando un baracchino, sto usando un Saturneco. Cappa, l'ho visto che stavo usando il Saturneco. Ma tu l'hai dato quello là, se l'avessi saputo che lo dovevi dare te l'avrei comprato io. Me lo dovevi dire in tempo. Me lo dicevi in tempo e io te lo davo. Ma che l'hai dato? Tu c'hai tutto lo spazio per modulare con quello lì. Credo che sia finito Alghero, capito? Sia finito Alghero. Ho detto, come me l'hai dato? Dici, te l'hai fatto fare prima quello dato. C'hai tutto lo spazio per tenerlo, è un bellissimo apparecchio questo. Lo so, ho fatto un sacco di lavori, ho fatto fare come si deve e poi l'ho dato via, vabbè. Tanto tutti non le potevo adoperare oggi. Ma ti devo mettere in giurica. Io Saturneco come primo l'avrei tenuto, Lo so. Quello per me è la chicca piperita. Poi c'ho l'S9, c'ho il 3009, c'ho il Cobra, c'ho quello modificato, l'ARA 48, quello che mi hai venduto tu. stati uno più bello dell'altro, insomma, quindi uno più bello dell'altro. Eccomi tornato. Riccardino. Mi avevano chiamato, stavo facendo marketing di criceti, sto cercando di vendere. Dove li hai messi? Su subito. Un attimo, stavo mangiando. No, stavo chiedendo in giro, ancora non ne ho messo subito. Se li metti su subito, io quando c'avevo le cappie ne vendevo subito, la prendevo 20 euro l'una. Sai quanto ne ho venduto? Ma non riesci, con le cappie non riesci a recuperare neanche i soldi di quello che si mangiano. Io ogni giorno dovevo andare a fare i finocchietti selvatici, gli davo la lattuga, gli davo la frutta, gli davo il mangime che mangiano loro, insomma un po' di tutto. E praticamente poi alla fine solo il mangime che mangiano loro, la scatola per intenderci, tipo quella che si dà ai canarini, quelle scatole di cartone, quella lì costava 18 euro, non ti dico altro. Bah, io la compro a 5 euro dal Kaplan, che sono anche dei cani morti. Lo so, ma le capre mangiano, non possono mangiare i semi, capito? Invece per commerciare ci mettono anche i semi in mezzo, io non gli davo quello senza semi, gli davo quello a base di erbe, sono tipo pellet, rimane, però è fatto con le erbe compresse, capito? Ho capito. No, non mangiano semi. No, le capre non sono animali che mangiano semi, devono mangiare peperoni rossi perché devono integrare la vitamina C che loro non producono. Devono mangiare peperoni, specialmente i rossi, che contengono più vitamina C. Ah, ho capito. O se no li devi mettere 6 gocce di cebbio nell'acqua. Il cebbio è praticamente, sono delle gocce di roba chimica, diciamo, che contengono vitamina C e per integrare la vitamina C gli dai le gocce di cebbio, ma siccome loro acqua ne bevono poca, è meglio dare i peperoni gocciano un bel, cioè non è che ce li hai coltivati, però se vai a comprarli costa un sacco di soldi, lo sai quanto spendevo con le capi? Ui, io ne avevo anche 12. Ah, ho capito. Oh, ma ci siamo dimenticati, se non sbaglio, di Muros. E chiamiamo, avanti, chiodo arrugginito, ci sì. Meno male mi sono ricordato di te, sennò ti lasciavamo anche tutta la notte in sospeso. Figurati per tenere la tua gamba di lui, Riccardi, era ma niente. Non è che pesce, bobo. Oh, yeah. E quindi Gigi, come va? Già va bene, dai, ho sbagliato il microfono. Adesso no, le sto un po' accendendo, farle girare queste baracchini e sto accendendo un po' tutti, dai. E adesso ne ho acceso un altro, così li faccio scaldare, che sono sempre firmi. Questa è un'altra ancora e niente, questo è quello che ho operato in camion già. L'ultimo periodo, dai, prima di andare di scendermi adoperavo questo sempre, quel solito che conoscevate voi, dai. Oh Claudio, se te lo posso chiedere, puoi mandare il tuo numero a Roberto, che così ti mando un messaggio? Lo sta dicendo con un po' di tristezza, Gigi. È vero, hai ragione, è tutta una tristezza. Come che fosse un ricordo, quello non lo prenderai mai. No, questo non lo darò mai, a parte che qua c'è, me l'avevo fatto tutto a modo mio, questo c'è scritto il mio nome sopra, Gigi Vulcano, ho fatto c'è lo squalo che sta acchiappando il calamaro, no? Questo me l'avevo tutto illuminato, ho fatto i pomilli, ho fatto un sacco di lavori su questo baracchino. C'hai in casa la cosa di alzarti presto la mattina, dai, almeno ti riposi un po', non si può tutta la vita sacrificare, manco io sto più lavorando, però non è che puoi stare tutta la vita facendoti il mazzo, io già me l'ho fatto, per 38 anni me l'ho fatto. A me lo moduravo tutto il giorno in baracchino, viaggiando, capito, ti ricordi da Campeda collegavo Sassari, la sera stavo rientrando da Cagliari, ti ricordi? Ogni sera collegavamo, capo, a chi riusciva a arrivare a parlare con me. Da Campera, io ho parlato con te anche all'Isola Rossa, ti ho accompagnato dall'Isola Rossa sino a Sassari e già era bello là. Ma le questioni ci sono tutte le sere qua, se tu entri dopo le 6 così queste ci sono. Anzi, in questo periodo stiamo facendo anche di ex, ultimamente c'era molta propagazione, anche troppa. Ma c'è Claudio da Murcia, lo stiamo chiamando. Non c'ho tempo. E la sera adesso, siccome un po' sono allungate le giornate, e quando smetto sono già le 7:30, le 7, poi faccio la luce una cosa e l'altra e a volte ho acceso, vuol dire c'era qualcuno, sì, stavate, però poi vado a farmi la luce, esco e non c'è più nessuno, perché tutti sono per cena e per una cosa o per l'altra non c'è più nessuno dopo quell'ora lì, capito? Ma sono un po' impegnato, non controllo neanche il telefono, a dirti la verità, non sto neanche a controllare il telefono perché non c'ho tempo, sto facendo questi lavori a casa, ne sto approfittando questo periodo, anzi sto lavorando, facendo il lavoro a mia sorella anche, capito? E devo farmi, e ne ho tanto da fare, capito? E sono impegnato così, non è perché non voglio entrare, perché non c'ho tempo, oggi perché è festa non avevo voglia di fare niente, se no non sarei entrato, capito? Perché non sto facendo nulla, sono fermo a casa e mi stavo un po' annoiando e acceso, anzi mi sono messo a fare quel baracchino lì, a fare quel lavoretto lì, hai capito, del frontalino e via dicendo, e mi sono impegnato lì, poi però ho acceso e ho provato a parlare con voi, dai, tutto qua, avanti per te. Io invece mi stavo assicurando con l'alimentatore che ci avevo di 2 ampere, ma ce l'avevo roba di 15 anni, sulla mensolina, non me lo ricordavo manco più di averlo. E adesso l'ho tutto quanto ripiegato e l'ho portato qua sempre, adesso domani mi compro la bomboletta e me lo faccio. E non tengo, perché così mi serviva prima, quando per dire devo fare qualche lavoretto, tipo attaccare un microfono al baracchino, mi mettevo il baracchino in cucina con quell'alimentatore e un'antennina di quelle portatili là. E così me lo collegavo, capito? E facevo i lavoretti, perché qua nella stazione viene male a fare. E quindi me lo facevo separatamente e usavo quell'alimentatore, tanto per il baracchino vanno bene 2 ampere, poi di quei 2 ampere che 2 te le dai, 2 ti dice 2 te le dai. È positivo, sì, ma per 2 ampere le trovi senza... di così piccoli ne ho una marea, ne ho buttato anche parecchi, capito? Ne ho da 8 ampere, ne ho tanti. Quelli delle macchinette, come si chiama, videogiochi, delle macchinette rubassoldi, capito? Quelli me ne hanno dato un po' che non funzionavano, io giustamente sono andato, vabbè, avevano tutti lo stesso problema più o meno, tutti gli stessi condensatori, sono andato da come si chiama lì a Terra Secca, da Tonino già, e ne ho preso un bel po' di quelli e me l'ho tutti riparati, capite? Ne ho fatto, e poi li ho collegati tutti assieme e ho fatto un coso grosso, addirittura ho fatto per quella macchina del salsiccia, se te l'avevo mandato, col motore della lavatrice l'ho fatta andare a 24, le ho fatte a 24, le ho copiate assieme, ho fatto l'alimentatore a 24 e facevo funzionare il motore della lavatrice per tritare la carne. Sì, quello che mi ha mandato, già mi ricordo, là. Ho capito. Andava bene. Già va bene, Gigi, già va bene. Io adesso la stazione ce l'ho completa, mi serve solo quel microfonino così, bello, là, che vada bene. Perché l'amplificato non ci sta. Ce l'ho, però non ci sta quello... il MB5 non ci sta nella stazione, e allora per farcelo stare devo aprire il cassettino, quello scorrevole dove si mette il computer l'ho messo in cameretta e ci metto l'MB5 sopra e lo uso anche per scrivere. Vabbè, io c'ho anche il diario di frequenza, che prima lo usavo, mettevo chi entrava, l'ora che entrava, come arrivava di segnale, ci avevo tutto quanto. Positivo, riesce a vedere se funziona ancora il coso qua, riesce a vedere, Riccardino c'è sempre. Sì, si sta chiamando, aspetta Riccardino, devi aspettare che ti rilasci, va? Scusate, perché ti dovevo chiedere una cosa. Dimmi Riccardino. lo sai che ho la memoria breve, che poi non mi ricordo le cose e poi ci faccio una brutta figura, che poi mi svanisce dalla mente, capito? Ti volevo dire, tu la stazione non ce l'hai completa, ti manca ancora molte cose che ho io. E che cosa mi manca? Bene, bene, bene, bene, ti manca un microfono Turner, che sono le basi, va proprio alle basi. I Turner non mi piacciono, non ce l'ho posso permettere, non mi piacciono i microfoni da tavolo, non mi piacciono più quelli da palme. E i Turner, sai quanto ne ho avuto io? Io ho avuto il Turner, ho avuto l'Expander 500, ne ho avuto tanti di quei microfoni, ho avuto l'M, il Turner più 2, U, più U, quello celeste grigio da palmo, ne ho avuto microfono, ma a me non mi manca nulla, perché grazie a Dio tutti gli apparecchi che ho vanno bene, c'ho Rose, traccordatore, tre alimentatori, anzi quattro alimentatori, c'ho gli apparati per modulare, quindi non mi manca nulla, e i microfoni, quelli lì io non li metto perché non ci stanno, metto quelli da palmo che mi vanno anche meglio perché io sto sdraiato quando vado e posso tirare e fare, invece con quelli da tavolo non viene bene. Ho capito. Volevo, stavo chiamando Muros prima quando era il mio turno e non mi ha risposto. Ehi, ho capito. No, perché ti volevo chiedere te l'hai già capito, se potevi mandare il tuo numero a Roberto che ti volevo mandare un messaggio. Ok, allora glielo dico a Roberto gli dico quello di Gianni, scusa, ma l'ho il PTT. Ehi, fammi sapere allora. Quello è Giuseppe 5 Bussoli, carissimo amico mio, di avventure. 5 Bussoli è Gianni, anzi Claudio. Di Muro, e quello è Giuseppe 5 Bussoli, Peppe, capito, un carissimo amico mio da avventure, abbiamo fatto diverse raduni insieme di CB sul continente, ma parecchie volte, dai, è venuto anche qua in Sardegna in ferie, è un carissimo amico mio quello lì. No, le conosco parecchio perché ho fatto tanti raduni, capito? E allora li conosco per quelli lì, per quel motivo, perché sono stato tante volte su in Puglia, Albero Bello, l'ho fatto qualcuno io pure, ne ho organizzato qualcuno io qua in Sardegna, attenzione, ne ho organizzato anni fa qualcuno pure io. Sì, conosco anche Angelo Trottorino, io conosco a tutti, capito? Quando ha fatto lui la festa lì a Armero Bello, a Bari, in Puglia, sono stato dalla sua festa, sono andato, capito? Sono andato io, 5 Bussoli e parecchi. Sì, Trottorino ho fatto insieme a come cavolo si chiama, va, adesso non mi viene, là, non mi viene il nome l'altro. Cava cava. Non lo sapevo che ce l'aveva, perché 3 anni fa già lo conoscevo, conoscevo prima di andare in pensione, sono 5 anni in pensione, e lo conoscevo da prima tuo padre, ma non sapevo che ce l'aveva, perché se sapevo che ce l'aveva me lo facevo dare a me, glielo prendevo io. KK. Andò bene, avanti già. Sì, io ho cambiato apparato, dai adesso, come va questo qua Gigi? No, vanno bene, quando vanno bene gli apparati è tutto ok, tutto ok. Anche questo è sempre, no, questo è qualche microfono, riesci a vedere? Ah, questo è della Telecom, tipo CTE Telecom questo è. Anche la Telecom ha fatto microfoni. Positivo, anni fa ti ricordi ne portavo tanti, avevo fatto portare io questi microfoni. Allora mi interessava un po' di tutto, ti ricordi facevo portare baracchini, facevo arrivare lì a Marrubio tramite quello di Reggio Emilia, ho fatto portare quel Magno S9, ho fatto portare quell'altro, il Cobra, poi tutte quelle antenne famose, ti ricordi facevo portare... Io avevo fatto, facevo portare un po' di roba, capito, perché questo non ci aveva contatti in Sardegna e... Siccome non si poteva, dovevi avere una partita IVA, un negozio per poter comprare da lui, allora ero riuscito tramite questo di area di servizio di Marrubio, tramite Luca e facevo portare tutto lì, capito? Ordinava e portava tutto. Ma tu sbaglio hai una frusta nera? Sì, dovrei averla da qualche parte, una frusta nera, ce l'ho, ce l'ho. Ma allora io ho quella del DAF, è sempre la frusta nera che dà in dotazione il DAF. Ah, quella piccolina. Intendi quella, tu quella piccola che mettevo io in macchina una volta. E quella caricata, quella nera caricata tutta attorno. Ciao Gigi. Aspetta, chi è questo? Natali, tu sei? Eia, ciao Gigi. Eia, ciao Natali, buonasera anche per te. Qua non c'è solo Gigi Vulcano, siamo in tanti, eh. E io non ho fatto ascolto, adesso ho sentito Gigi. Ciao Gianni. Sono geloso, c'è Riccardino, c'è Chiodo Arrugginito. Sto scherzando in attacco. Va, vai, vai per chi vuoi. Salutate tutti così non sbaglio. Buonasera a tutti. Ciao, Natali, ben sentito. Gigi, mi interessava quella frustanera, dando la stanza. Modulatore e con la calamita per attivarlo, le modifiche, l'ha visto per la prima volta Natalino, il mio. Che ero curioso di sapere com'era questo. Ti ricordi Natali? La prima volta è stato Natalino a vederlo. A me me l'hai fatto fare con la calamita. Sì, ma un mese dopo, capito che. Ma aveva visto Natalino, era curioso di vederlo com'era. E allora, quello della calamita, sì, me lo ricordo. Comunque ci sono un bel forum adesso sui cibi, li stai seguendo Gigi? Sì, quando c'ho tempo già li guardo, già, quando c'ho tempo però. C'è quello robusto che è un bel simpatico, quanto fa ridere. Ma quale stai dicendo? Non stai parlando di come si dice, ma quello che fa le modifiche sta dicendo, per far vedere i baracchini, quello sta dicendo. No, ce n'è uno che adesso non mi ricordo come si chiama, che è robusto, sta sempre ridendo, cazzo fa, è troppo simpatico. Non ho capito, se è Marco Falcazzurro, no? Può darsi, sì, mi sa di sì. E Cicciottello, bello ciccione. Eia, non è Cicciottello, è Cicciocione. Marco Falcazzurro è quello lì. Tanto quello mi ha dato un bel di dritta a me, ascoltando a lui e vedendo... Mi ha dato un bel di dritta, un bel di consigli, capito, su certe cose, dai, come risolverle. Capo, no, e poi è simpatico, sta sempre ridendo. Ascolta, ma quell'antenna lì la stai dando, quell'antenna che c'hai, quella frusta nera? Io me la devo mettere in macchina, però la voglio nera l'antenna, perché la macchina è nera, non voglio farla sfigurare. No, a te cosa mi manca? La basetta mi manca. Mi manca la basetta di quell'antenna lì. Ne ho adattata un'altra che sembrava che assomigliava, ho provato... Con la base magnetica l'ho provata così, come ho schiacciato la portata ho bruciato il finale del modificato e poi è toccato di cambiarmi il finale, capo. Bruciato il finale del baracchino di quello di Terzo.